finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sì, e infatti ci siamo, come accennato poc'anzi. Ci mettiamo comodi. Abbiamo un po' abbandonato quelli che sono gli autismi e gli automatismi, ma più gli autismi del trasmettere dagli studi, per cui se c'era uno sgabello fuori posto, una luce, troppo accesa, non uscivano le parole, c'era qualcosa che non andava, non si trasmetteva bene. Eppure, insomma, abbiamo bisogno di sistemarci a dovere. Però, insomma, ancora non abbiamo acquistato e conquistato quella sorta di autismo. In fondo ci sentiamo ancora un po' disorientati, ma questo è, ci teniamo a trasmettere, perciò o si va in replica, in registrata, in qualche misura, oppure... Va bene, Radio Onda Rosso 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, lo abbiamo appena accennato. Una radio che, come sapete, trasmette da 43 anni e lo fa grazie al vostro contributo. Di tutte e tutti, contributo anche economico. Il sito della radio è www.dorsa.info, andando sulla cartella. Col cuoricino c'è scritto sostieni. Si apre una paginetta, ci stanno tutte le modalità per poter sottoscrivere per Radio Onda Rossa il crowdfunding, l'abbonamento della radio. E per la radio è terminato da un po' di settimane, da qualche mese. E fra non molto lo rinnoveremo, perché poiché la radio ha bisogno di sostentamento, di soldi per poter pagare le bollette, per poter tirare avanti. È necessario sostenerla sempre e l'abbonamento serve anche a ricordarvelo. Quello che vi ricordiamo allora è che sempre un contributo per la radio è che abbiamo pubblicato un nuovo bellissimo calendario. Che celebra peraltro i 20 anni da Genova 2001, con la radio fa certe parte di quel collettivo, di quel coordinamento di emittenti che si chiamava Radio Gap e che già da prima e poi durante i giorni di Genova si presentò a rendere pubblico quelli che furono quei giorni. calendario realizzato da Zero Calcare, che a quei tempi era un giovinetto, ma che comunque ricorda bene quelle giornate. Vi ricordiamo inoltre il presidio solidale sotto il carcere di Re Bibbia, come ogni 31 dicembre dalle ore 10.30 all'angolo di via Bartolo Longo e via Maglietti. Un anno di lotte coraggiose e assolutamente ancora più forte. E ricordando anche le condizioni disastrose del sistema sanitario del paese pubblico, ancor più disastroso dentro le carceri, ovviamente, dove ogni cosa è di molto peggiore, quando possibile, se possibile, rispetto al fuori. E in carcere, diciamo, si riesce sempre a peggiorare, a rendere parossistiche, appunto, le situazioni e le condizioni di vita e anche di morte. Thank you. fast. When the new year's here, it's time for a sailing. E ci fu un periodo della storia del... del folk celtico britannico, di quella che veniva considerata la musica tradizionale, che fu riarrangiata in forma moderna. Stiamo parlando in forma moderna nel senso di attuale rispetto a quei tempi, e stiamo parlando essenzialmente della fine degli anni 60, inizio anni 70, quando la musica tutta subì un'accelerazione e la musica cosiddetta popolare un'accelerazione, contaminazione, rimescolamento totale. E nei primi anni 70 non ci fu altro che reinterpretare quella che era la tradizione classica dei suoni, delle ballate dei paesi, essenzialmente delle isole britanniche, e un po' di tutta la musica celtica che si prestò. Ricordiamo anche la parte della musica bretone, si prestò appunto a questa contaminazione e rinnovamento. E ce ne stanno tante di queste cose, di questi esempi da ascoltare. Ne ascolteremo qualcuno stasera. Quello che invece abbiamo ascoltato adesso è una riedizione di quelle sonorità del 2007-2008. Stiamo parlando di The Old Service, cioè la band di Stephen Collins, che è un po' il Deus Ex Machina di tutto questo progetto, accompagnato dalla voce di Dean Coller, Tom Cooper, Kate English, che stava al flauto e alle percussioni, insomma, e John Lepin. Ma essenzialmente appunto il prodotto è del genio, della maestria, dell'impegno di Steve Collins. Quindi The Old Service, Two Doors Hanging Out e April Tree Man. Enter the Hoggins. Through the streets of go. Oh, the lassie said hello, Donald, where's your trousers? To wear the kilt is my delight. I'm never wrong, cause I'm always right. The Highlanders would get a fright if they saw me wearing trousers. Let the wind blow high, let the wind blow low, through the streets of a kilt I go. Oh, the lassie said hello, Donald, where's your trousers? Driving in my car, went downtown to Kenny's bar. 15 scotches, 5 cigars, and I left without my trousers. Like a wind blow high, like a wind blow low, through the streets of my kilt I go. All the lassies shout hello, Donald, where's your trousers? Let the wind blow high, let the wind blow low, through the streets of my kilt I go. Donald, where's your trousers? Excuse me? Sir, you on the bicycle, would you pull over to the side of the road, please? Have you had anything to drink tonight, sir? The window high, at the window low, at the window high. And what happened to your pants? Donald, where's your trousers? At the window high, at the window low, through the streets in the kilt I go. All the lassies shout hello. Si ha ovviamente, che più ci viene spontanea, quella di pensare che quando si producono questi tipi di suoni, questo tipo di suoni che sono apparentabili alla grande famiglia della musica celtica, si pensi essenzialmente a gruppi, a band provenienti appunto dalle isole britanniche, essenzialmente dalla Scozia, dall'Irlanda ovviamente, dal Galles, da quelle parti della penisola britannica, da quelle parti della Inghilterra stessa, non totalmente anglosassonizzate, alla Bretagna ovviamente, altro luogo dove probabilmente le vecchie popolazioni di origine celtica risiedettero e lasciarono le loro tracce. E invece proprio dagli anni 90 in poi molta della produzione si è spostata proprio dall'altra parte, nel nuovo continente. Come dimenticare Trapped Murphys, Floggy Molly, e ovviamente questi Enter the Huggins. Donald, where's your trouser? Dove sono i tuoi pantaloni, Donald? Forse non pensavano affatto a Donald Trump, essendo prodotto questo lavoro nel 1999, però insomma, non lo so, maliziosamente ci viene da pensarlo. Pensando al grande ciarlatano che per 4 anni le popolazioni e soprattutto gli esclusi degli Stati Uniti hanno dovuto subire le sue malefatte, le sue cazzate, insomma, dai, pronunciate con tanta leggerezza. Enter the Huggies, quindi, che invece, come dicevamo prima, vengono da Toronto e non dalle isole britanniche o giù di lì. E invece ci andiamo in Irlanda, dai. Bisognava farle, ci andiamo con la band che dal 1962 forse la band più storica, blasonata, insomma, non vorrei dare aggettivi, comunque una delle più importanti senz'altro, dato anche la ormai pluridecennale attività, più di mezzo secolo. Dal 1962 le Chieftains, e calcolate che tanti non ci sono più, proprio per sopraggiunti limiti di età o addirittura sono morti, scomparsi, ma è un collettivo che continua a produrre. Questo lavoro però è del 1992 e ce l'andiamo ad ascoltare. pensa che sia stato il punk hardcore, il green metal a inventare le tracce da un minuto? Non sa appunto che nei tradizionali, non sa, forse lo sa anche. È bene ricordare che già molti anni prima si usava miscelare tutti insieme i vari jig, le varie ballate. Tanto più che in questa traccia di 6 minuti in realtà ci stanno 6 movimenti, 6 brani veri e propri. Chase Around the Windmill, Toss the Fathers, Ballyslow Fair, Child Chat, N.A. Grid, Quill, Adoa Slide, e The Pretty Girl. Per The Chieftains. Cambiamo totalmente epoca e ce ne andiamo in un disco nuovo, quasi nuovo del 2019. Si tratta di Desert Session, il progetto di Josh Homme con tanti e tante altre. E siamo abituati alla musica del deserto, del Far West. E invece in questa traccia si cimentano con delle sonorità che definiremo senza troppo indugiare, suoni tipicamente mediterranei delle nostre parti. Far East for the Trees, Desert Session, Radio Onda Rossa 25 o'clock, e poi vi diciamo qualche altra cosa. Ma gli scuoli da starci con se a voi che c'è di che da back on steam con c'è con il lens ne rovi con team con c'è con il cara di cronici c'è tu di nere di fu se non ci c'è un e con il canale che c'è tu ma voi c'è tu ma voi c'è tu ma voi. Hey now, everybody crowd round, something you should know. Fast break, always a mistake when you got nowhere to go. You can lie for the honey, lie for the wealth. You can lie to each other, but you better never lie to yourself. No sign of any second mind, what she had she gave. Red hand with another man, there's no one here to save. She started out like most of them, heart full of dreams, a head full of nothing. Sovente che alcune song ci rimangano attaccate all'udito, al cervello, ci entrino dentro e non riusciamo a sbarazzarcene. Diventa quasi una specie di dipendenza e così di tanto in tanto, passeggiando dalle parti del nostro diffusore audio, ci viene la voglia di riascoltare questa If You Run. No sign of any second mind. Sempre da Desert Session, ovviamente, Fiat, Libby Grace, questa è la voce che state ascoltando. E la state ascoltando a Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, www.ondarossa.info, il sito ondarossa@ondarossa.info. Per le vostre comunicazioni, via email alla radio. 06 491 750, recapito telefonico 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Avevamo parlato di come la musica tradizionale britannica o delle isole britanniche si fosse contaminata proprio all'inizio, proprio intorno all'inizio degli anni 70, assumendo a sé il blues, il folk, il rock, il roll. E ovviamente l'esperimento più interessante è il nostro modestissimo parere, e un'altra di quelle voci che ci rimane attaccata, e lo diciamo sovente, è quella di Alexandra McLean Denny, insieme in questo caso ai Farfrong Convention, band dalla quale non tardi si separò, poi si riunì, insomma. Ci ascoltiamo i Farfrong Convention. Nottamoon Town, Farfrong Convention, questo è proprio un rock and roll. Lo mandiamo da capo, non è questo, il rock and roll è la traccia che viene dopo. Questo appunto è un tradizionale risuonato nello stile dell'epoca, cioè unendo elementi di psichedelia. Da capo, Farfrong Convention, Nottamoon Town. Not a soul would look up. Not a soul. E questa invece è Mr. Lacey, Fairphone Convention. Sirens going sky is lightning. When the night is closing, we're coming around the lightning. When the night is open, when the sky is lightning. When the sky is closing, we're coming around the lightning. When the night is open, we're coming down the lightning. When the sky is closing, we're coming to the sea. When the sky is lightning, when the night is closing, we're coming around the lightning. When the night is open, when the sky is lightning, when the sky is closing, we're coming around the lightning. When the night is open, we're coming down the lightning. When the sky is closing, we're coming to the sea. When the sky is closing, when the night is lightning. When the sky is closing, we're coming down the lightning. When the night is open, we're coming to the sea. Rosso 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, e benché appunto in esilio, diciamolo così, più o meno volontario, che ci costringe, sembrerebbe, a una conduzione in solitaria di 25 O'Clock, e in realtà 25 O'Clock, malgrado appunto il suo autoesilio o autoeremitismo, si avvale della collaborazione sempre pronta ed azzeccata di vari collaboratori, come sapete, collaboratrici, che comunque hanno modo di, in qualche maniera, in forma criptata, di comunicare col sottoscritto e fargli pervenire. La, la, la, la, la, la, la, la, delle disponibilità alla collaborazione. I can remember what we saw. Ancora una volta una traccia fantasma, qualcosa di cui sappiamo veramente poco, ci viene sottoposta, e noi non possiamo che prenderne atto e anche prenderne possesso in qualche modo, con piacere, dobbiamo dire. Questa volta il titolo della traccia si chiama Sorgente ed è prodotta da un coming around the lightning when the night is open when the sky, da uno pseudonimo che ci ricorda un nome volscio, guarda caso, come la radio in via dei Volsci. È il nome volscio di Velletri. E Velester è proprio l'anonimo e incognito e ignoto produttore di questi suoni, non quelli che state ascoltando sotto la nostra voce, che sono le voci di Rina Naldo e i suoni di Rauro e Free, per appunto il disco di Rina Naldo e Rauro e Free. È uscito nel 2020 un disco che si chiama Name of the Nord and the Woman. Da cui stiamo ascoltando Wars Out of the Eads. Allora, dicevamo, ci è ovviamente pervenuta la traccia di Velester Sorgente, che abbiamo debitamente voluto alterare, anzi la alteriamo qua in diretta, non avendo avuto modo di farlo in precedenza, e ce ne scusiamo per questo. Magari quando avremo un po' di tempo per mettersi e permetterci a manipolare con più tranquillità e magari più estro e audacia, riusciremo anche a produrre altre tracce mixate. Quindi Velester Sorgente a Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Ma poi tu ci credi alla sua teoria che da quel pesce è venuto l'anfibio, poi il rettile, poi la scimmia e poi l'uomo? Ti sei mai guardato allo specchio? Sì. Serve stregone per il mal di gola? Sì. Questa a che serve stregone per il mal di gola? Sì. Questa a che serve stregone per il mal di gola? Sì. E questo che cos'è? Umara Suga. Cosa? Per la testa. Ah. Sì. E questo che cos'è? Umara Suga. Cosa? Per la testa. Ah. Sì. Questa a che serve stregone per il mal di gola? Sì. Questa a che serve stregone per il mal di gola? Sì. Per il mal di gola? Sì. A che serve stregone per il mal di gola? Sì. Questa a che serve stregone per il mal di gola? Sì. Thank you. ci credi alla sua teoria che da quel pesce è venuto l'anfibio, poi il rettile, poi la scimmia e poi l'uomo? Ti sei mai guardato allo specchio? Sì. Arriva, nota che la voce si sente solamente a un canale destro, e beh, lo sappiamo, è parecchi mesi che cerchiamo di risolvere questo problema, ma forse riusciremo con tramite l'uscita mono del segnale del microfono, però diamo un consiglio: se volete cambiare ogni tanto girate il verso del vostro connettore jack, invertite la cuffia se state in cuffia e lo sentirete sul canale sinistro. Vabbè, stiamo ascoltando la voce di Mark Oliver Everett, Mr. Hills, per Hills, ultimo lavoro per loro del 2020. Earth of Door, Odora. You don't have any choices. Da qui abbiamo ascoltato Are You Fucking Your Ex e poi stiamo ascoltando Waking Up, Mark Oliver Everett. But everything, every day is great. Forse il più anything can happen. Autorevole cantore di filastrocche per bimbi. Say, melanconiche e tristi, un bimbino mai cresciuto, figlio di Hugh Everett III, creatore dell'interpretazione a molti mondi della meccanica quantistica, di cui il nostro Mark Oliver scoprì il cadavere del padre morto. È un po' questa poi la cifra di tutta la sua produzione, sempre piena di lutti e di tristezze. Che ovviamente vi accompagna nella dimensione onirica di 25 O'Clock a Radio Onda Rossa. E da queste ballate tristi da un po' di settimane a questa parte non facciamo invece che attingere a un altro disco di cui vi abbiamo parlato in lungo e in largo, e perciò non lo faremo. Vi diciamo soltanto che stiamo parlando di Billy Bragg e Joe Henry, che reinterpretano una serie di grandi classici della tradizione nordamericana in giro per le stazioni di quel subcontinente. Morning sun, a sweet surprise, it's finally looking. La seconda traccia si chiama The LNN, Don't Stop Here Anymore, un po' difficile da pronunciare tutto in un fiato. Quindi, a Radio Onda Rossa, Billy Bragg e John Henry. Voice, you don't have any choices. It's best we get out of the way. Nothing. Eccolo. But everything. Eccolo qua. When I was a curly-headed baby, Daddy sat me down upon his knee. Said, son, you go to school and learn your lessons. Don't become no dusty minor boy like me. Was born and raised in the mouth of the Hazard Hollow. There's a cold car's rolling and a rumbling past my door. Now they stand in a rusty row of empties. Garcia LNN, don't stop here anymore. Used to think my daddy was a black man.

Not Touch Pats Moi. Dai suoni dei Lidles e dalla voce di Jenny Bett, Non Toccarmi ci ricorda un vecchio spot di Radio Onda Rossa, e più precisamente delle compagne di Radio Onda Rossa che dicevano no significa no. Cerchiamo di metterlo bene a mente, cerchiamo di capirlo che no significa no. Noi maschietti. Che molte volte questa cosa proprio non la vogliamo capire, o fingiamo di non capirla. Non è così difficile. Un bel mozzico nel mondo animale significa no, non toccarmi. E questo è Mr. Motivator. Still covers for LeBron James. How'd you like them cliches? This is the day our old hands is the bricks away. This is the day our old hands is the bricks away. You can do it. You can do it.

perfetto stile 25 o'clock e forse anche da prima, si salta da palo in frasca con estrema agilità e semplicità. Passando quindi dalla suburbia di Slave for Mods, dalla enorme estesa periferia suburbana ai suoni del deserto, dei campi dell'Algeria, Imaghan Alua, e poi ancora la potente, al potente muro di suono, alle volte lento, alle volte ossessivo, da Chicago quindi Russian Circle, Arluck a 25 o'clock, Radio Onda Rossa. sì, effettivamente ci ritorna scomodo andar a rintracciare tracce, un gioco di parole. Durante la diretta, insomma, è abbastanza difficile. Ce ne rammanichiamo, comunque ascolteremo e provvederemo magari nella prossima puntata, che non ci sovviene ora se sarà proprio mercoledì prossimo, ci auguriamo di sì, e quindi di recuperare e ascoltare quanto ci viene proposto insieme. Vabbè, con questi a Certain Radio versione 2020, Friend Around Us, amici intorno a noi, è questa, malgrado il coprifuoco, le pandemie, il tentativo di isolarci tutti con un pretesto, una scusa, una cosa seria. Comunque, non demordiamo la nostra socialità, non la molliamo, benché in autoeremitaggio. Con questo per dirvi comunque che siamo alla fine di 25 o'clock e alla fine del mercoledì barra giovedì notte in diretta di Radio Onda Rossa. Eh sì, perché si riprenderà domattina, dopo che vi avrà tenuto compagnia la compagnia automatica suonata per tutta la notte con le sue selezioni musicali e le sue repliche. Dicevamo, si riprenderà domani mattina dalle 8 con la rassegna stampa, la lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadina, redazionali della mattinata, fino alle 14, alternati ovviamente dalla canovista compagna automatica. Si riprende, dicevamo, alle 14 con tutta scena cinema, alle 16 atti a blues oltre a black music, alle 17 alle schiena del soul, alle 18 il Mezzedes e la sera i redazionali del pomeriggio di Radio Onda Rossa, alle 20 tabula rasa, alle 23 apostasia. Il nostro saluto più importante va a tutti e a tutte coloro costrette a condizioni di limitata libertà personale, carcere, radianza, clandestinità, arresti domiciliari, i centri di detenzione per migranti. La reclusione, la separazione sembra che sia la cifra che più aggrada questo modello di società, di potere che ci attanaglia. E per dire no a tutto questo, per, al solito, dimostrare la nostra vicinanza a chi sta dietro i muri, dietro le sbarre, appunto, isolato dal resto della società, società carceraria a tutti gli effetti. Ricordiamo che come ogni anno Radio Onda Rossa vi dà appuntamento per il 31 dicembre fuori da Re Bibbia. Un appuntamento ancora più importante in un anno in cui le condizioni di vita per chi sta dentro sono sempre più dure, con il numero dei contagi sempre più alto e un isolamento con l'esterno sempre maggiore. Ci vediamo all'angolo tra via Bartolongo e via Raffaele Maglietti, dove ci sarà il consueto presidio. Troverete le antiche propiziatorie e le scarcerande 2021 nel calendario di Radio Onda Rossa. Ci spostiamo poi al pratone del femminile, in modo da poter fare un saluto a chi è reclusa e gridare che l'unica sicurezza è la libertà. E quindi, quando ormai sono 41 minuti dopo la mezzanotte, ci apprestiamo a darvi appunto la buonanotte. Chissà cosa ci inventeremo per la prossima puntata di 25 o'clock. Vi chiediamo comunque di restare in diretta fissi sugli 87.9 e di sostenere questa emittente. 61 80 40 01 il numero del conto corrente postale di Radio Onda Rossa, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56, 00085, Roma San Lollo. Dai, e così noi ce ne andiamo sotto la luna comunista bella. Radical minds.